adesso è tutto a posto. Se poi serve già, ci vuole poco accenderlo, è già pronto, hai visto? Aiuto a cipolla, va bene. 5 kW c'è la cipolla, 5 kW. 5 kW, c'ha due bobine sotto, la paura. Ah, già va bene. Una bella antenna, bro. Una bella antenna, ma bella vero, bro. Sono soddisfattissimo perché non la conoscevo, certo. Meno male, ma me l'ho fatta conoscere questo tecnico, ma veramente. C'è quello di Cagliari, ci siamo sentiti per telefono, mi ha detto, avevi ragione, avevo ragione. Certo, ma io, prima di attaccarla e di bucarne la manta, ve l'ho provata. Ho messo tutte e due vicino, manca parallone. Sì. Mi piacciono quelli affari, Ah, tu guarda il segnale. Guarda, lo faccio in diretta, va. Guardando lo stai il segnale. Devo solo commutare. Ok, intanto le radio sono uguali, i microfoni sono uguali. Guarda quanto è il segnale. Questa è la Mantova. Ci sei? Ehi, da me sono capizzato. Questa è la J-Pol. Salito il segnale. È anche meglio del radio. Anche meglio del radio. Sono lui sente. Te lo sto dicendo. È così e non c'è niente da fare. Ciao. Cosa vuoi dire? Aspetta che rimettiamo la mantova. Ecco qua. Questa è la mantova. Cosa vuoi dire? Per me è un'antenna non eccezionale, un BBU. Ah, ma giusto, ma è attaccandolo di sa fare. E poi c'era qualcosa. No, quello non ero sul Galaxy. Non ero. Quando capita lo uso sul Galaxy. Quando c'ho il Galaxy attaccato, ogni tanto lo faccio andare quello nero. No, quello grigio no, tanto. Era normale così. Quello grigio è pronto lì perché quando monto la 5 bande, HF lo uso in HF, quello già non me lo metto a fare in 27. A favore. Approvato sì. Approvato sì. Ehi. La si può provare. E se accende. Ecco, te faccio. Non già accende, c'è la ventola accesa. Fa un casino, lo fa. Mi si distribuisce. Oh, silenzio. Cos'è la valvola? Sì, c'ha due valvole, diciamo, quanto il fondo di una bottiglia. Sì, le 8, 7, 5, 8, 71, buona me lo ricordo. Due ne ha. Due belle toste, belle grosse. No, va bene. Già va bene. L'avevo provato, infatti l'ho fatto Antonio, le metti 3000, c'avevo della Magnum come strumento, grande, un bel grande come strumento. Cazzo, non mi sono accorto che anziché essere in 2 kW era a 1 kW, ho fischiato, boom, e ci fasciato lo strumento. Cazzarola! Il ballo infatti l'ho fatto a Roberto, ho fatto mettere a posto, non suo amico. Bisogna stare attenti con quelli, anche quelli non c'è a scherzare. Ti batti a cavallo, ti pigli a capo, ti batti il buco, ma sei gondri. Fumo esce. No, ma che? Basta alzarti alla bovita e tu. No, la vola. E quando scoppiano quelle cose, anche bisogna stare attenti. Valvo non c'è a scherzare. Non c'è a scherzare. Fai danno. Vabbè, comunque, io già non è che sono così esperto, comunque lo sempre lì. Lo uso se serve, se non serve rimane rispetto. Ogni tanto lo accendo per far scaldare le valvole, ma stavo collegato, non ce n'è. Già ci vuole un minuto a collegare. Vabbè, hai collegato, si vede i bomelloni che va. Ho visto. Quello lì sicuramente quello tira forte, cioè quello, come si dice, bisogna dare delle, bisogna darle, se non va l'antenna, che ti copia già tutto, mi esce fumo. No, poi quella è fatta apposta per le HF, non provvisare sul baracchino, capito? Perché c'è un cavo di comunicazione al relè dell'LC, comandato dalla radio, quello. Senza quel cavo non funziona. Non è come quelli, come quelle scelte attacchi il TL, sta andando, no? Lì c'erano dei cavi che vanno attaccati dietro la radio. Sono cose HF, sono più professionali. Quello è un kilowatt, 2 kilowatt in SSD, 2 kilowatt in SSD, fate già giudizio. E lo scala a 1000, giù lo sciato e manda a laterale, cazzo, fa un. Si è piegato l'ago dello strumento e l'ha rotto. E vabbè, pazienza. Ci abbiglia le luci. Vai tu, dice grosso mio. Quando si usano potenze è un casino. Se voglio anche pierre buone, porcellanati, capo modo, se no ti copia già tutto, esci fumo. E fate lo spezzone che c'è lì, è porcellanato. È lo spezzone che avrà in dotazione col TL922 della Kenwood. Sono due piede porcellanati all'alta temperatura, il cavo, beh, io ce l'ho a Camille con gli anfano, quindi cavo buono, piede nuovi, piede buono, sì, va bene, ottimo per la truppa, non problemi. Non sto guardando, colore, hai visto, colore grigio, grigio che nuve. Ciao. Luca, ci sei? Sì, io sono qua. Sto guardando l'acqua dal telefono. Gappa. Uia. La temperatura è abbascende, 24, è il cazzo. Me la bendicità. Dai, va bene, raga. Io me ne passo nel salone, guardiamo un po' di TV. Vi saluto, vi abbraccio e ci ascoltiamo le prossimine. Quella roba l'altro è tutta sotto controllo, aspettiamo, vediamo un po'. E poi già ci aggiorniamo telefonicamente, ok? Ciao anche a Luca e ciao a tutti quelli che stanno ascoltando. Buonanotte. Non ti preoccupare. Ciao, buonanotte. Ciao, Cla, buonanotte. Ciao. Luca! Andiamo. E allora, come ti è andata oggi? Quanto è andata? Come al solito. Gappa. Andiamo. Che giornata c'ha? C'è benetta, c'è. Domani riapre i chinicchi, mi. Stamattina li ho visti. Beh, cos'è venuto? Quanto pare gli hanno fatto una soffiata. Cazzo. Luciamo sempre, attento, mi chiederanno il fatto. Io ti... Cioè, si può, è inutile. Però hanno scritto anche balle. Ah, poi sono grosso. La dice di personaggio. Piazzate, è logico che tu vedi, se qualcuno va a raffreddare mal di gola, ma lì dicono che fa un gofite. Ma la gente è proprio matta, sembra che ci goda a fare queste cagate. E la figlia da che fine è stata in casa tua, via vai. Vabbè, compo. Vabbè, come stai scendendo col microfono tuo? L'ho sistemato. Cari che senti nulla, tutto a posto, ma cosa faceva? E ce l'hai che avete tagliato all'interno e quindi non usciva di audio, l'ho voluto prima di tutto scaldare, perché era incollato. La volta che l'avevo saldato appena sono uscito a togliere fuori, ci ho messo anche addirittura lo scaffatore, figurati, per farlo scivolare. Dopodiché ho tagliato il pezzo che c'era da tagliare e l'ho risaldato. Ho visto già funziona adesso, è perfetto. Spiegami immediatamente che tipo di ripeto ti faceva. Tutto a scarica per scivolare. Sto ancora ripetendo. Perché a scarica sto uscendo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, guarda un po'. Ora non ho poco colpito. Sì, perché ho bevuto male io. Ripreso ancora? No, adesso non sta facendo per niente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, sta ballando il cavetto. 1, 2, 3. Il ripreso è che non l'ho avvicinato nell'apparecchio il cavetto, cioè lo spinotto, quindi è un po' ballerino. Va bene, adesso metto proprio il saverso. Aspetta un attimino. Ma proviamo a vedere che con l'MB4 non si arriva già a problemi. No, tranquillo. L'apparecchio va bene il tuo, non c'è niente. Io ho lasciato solamente il microfono tuo nell'apparecchio mio adesso, capito? Quindi sta tranquillo, l'apparecchio tuo non c'è niente, è a posto. Dopo l'ho fatto, l'ho attaccato col lineare, l'ho fatto di tutti i colori. E non si piega di un millimetro, non scende la parte. Adesso domani vengo a me lo prendo e lo provo qua a vedere chi mi raggiunge, chi mi arriva. Io sono a casa qua, domani ti ho... c'è le luci di Simona e basta, poi io devo rimanere qui col cane e quindi già... a te la vieni? Vabbè, fammelo squillo allora a 210 farmelo, perché l'altro telefono in pratica me l'ho comprato nuovo, capito, il 371, quindi è l'altro che c'avevo e devo impostarmi tutte le chiamate e la questione anche delle WhatsApp. Mi sono preso un Alcatel 90 euro ieri sera al Conat. E quindi non avevo tutto il postale. Comunque il 210 è a posto, quello è tranquillo. Adesso ti sto chiamando, non è questo, no? No, fammi uno squillo. No, è l'altro, è il 371 quello. Quello è l'Alcatel. Il 340-992-210 dovete chiamarmi. Con quello mi appare il bombolo e sei a posto. Guarda bene se è questo. Sì, è questo qua. Perfetto, perfetto. Mi pare i baciani, cazzo. Vabbè, ha giocato un telefono. Quindi, mi serviva perché l'altro c'aveva il vetro filato. Allora, sono andato e me l'ho preso. Hai fatto bene. Io l'altro baracchino, l'altro, capito? Quindi ho messo tutto questo, il Saturno con l'altro, e mi sono piantato il telefono ieri, che mi serviva per il baracchino, cioè avere due baracchini e usarli tutti e due, un troiaio, voglio lo sai, c'ho da sistema americoso il 3009 che ce l'ho qui e con le 4000 ce l'ho giù, quindi ce ne ho 4 apparecchi più l'FM500S e poi l'altro ce l'ho l'amico mio, quello omologato che gli ho prestato, quindi avevo gli apparecchi. Però a usare uso questo perché a me non si sente il rumore della ventola, cazzo, di quello cinese, bisogna che lo smonto, secondo me la ventola me la tolgo e ci metto una ventola molto più grossa. la metteva la parte di fuori e poi stessa la parte di dentro. Non si è la non rotta. Ma sta a prendere, lo porti lontano l'alimentatore, però che non ti abbia più problemi. Ma è te cosa ci vuoi fare? Aspettami. Sembra che abbia comprato la ferrovia di quella con quei trenini. Quella ha preso la rotta. Infatti, se vedo un colpetto a volte funziona bene, a volte no. Ma già di cambiare la ventola, c'è una ventola molto più grossa dove ci vuole. Se li metto quella, li metto. Faccio fuori e la metto all'esterno. Così almeno non fa quel casino. E ripeto, tranquilla. Ciao. Ma io finché funziona questa la guida. Perché non cambia, ha sempre funzionato bene. Questa è la ventola del coso, mi dico, quelli che hai inventato dei squicci del computer. Le avevo anche più piccole, ma le avevo regalate. L'unica che mi rimasta è questa. E quindi gli piazzo quella, cambio la misura dei fori nuovi, gli metto due vizi, una da parte e una dall'altra e la lascio così. Ciao. La moto ce l'hai? C'è bravo. Due mesi, tre mesi, questo alimentatore. Funziona l'alimentatore, non c'è niente, solo che l'ho aperto, se non l'avessi aperto e li avrei portato, hai capito? C'è l'adesivo, quello giallo, se non l'avrei aperto gli avrei portato l'alimentatore indietro e quei cinesi me l'avrei fatto cambiare, ma ormai l'ho aperto, se la piglia a Napoli. No, a me tutti e due quelli che hanno a Rosì, perché ogni tanto li passo, non bisogna farli prendere polvere. Ce l'ho, io ce l'ho apparecchio, ce l'ho un anno, ce l'ho, e funziona sempre. No, io metto la ventola sopra, gliela bianco, quella che c'è dentro la stacco e gliela metto sopra. Anzi, secondo come faccio anche una cosa, ce la metto dentro un come si chiama, ce la piazzo. Una scatola, poi un pezzettino di sopra e la ventola gliela metto all'interno piazzata nello chassis del coso della scatola grande con le manecce, perché ne ho una, quindi faccio così. Proprio questi cavoli di cose, lo sai cosa è, Antone? Che prendono molta polvere, per quello che si imballa nelle ventole, capito? E infatti per quello, no, c'è un altro alimentatore, comunque non è quello il problema. L'ho pensato dentro una scatola di un salvatore di quelli che aspira, hai capito? E quindi adesso devo fargli i collegamenti, metterci l'attacco a dei sigari e cose le bananine, rosse e nere. Così me c'ho l'alimentatore interno ed è perfetto. E me lo uso nel caso mi serva per fare provare qualche baracchino, ho capito? Perché adesso quei baracchini nuovi che stanno facendo sono tutti con l'attacco a dei sigari. Quindi i capi non ne voglio tagliare, infilo le tamette da tacco di sigari di lì e mi faccio le prove. Non ci vuole niente a metterlo quello. E infatti questo baracchino qua, se ho preso stato un ecco, c'ha l'alimentatore cinese dentro, lo sai. Mi hanno messo senza ventola, tutto forato, c'ha l'alimentatore da 30 ampere dentro. Come mai? Cosa gli è successo il suo? Boh, evidentemente o gli ha preso fuoco l'alimentatore suo originale, non lo so. Gli hanno messo questo, gli hanno messo e hanno fatto un bel lavoro. Ci sta giusto giusto, a 30 ampere cazzo ci posso infilare dentro un lineare da 100 watt di quelli senza pulsante, capito? La diretta, ora fa culo, c'è la piastrina, faccio altro che comprarmi la piastrina, gli filo la piastrina e me lo collego diretta. Gli faccio l'ingresso 4 volte e l'uscita un'ottantina. E caramente, pulsaro ce l'ho. Ehi, sono schede della che vende Fusano quelle. Bisogna che glielo chiedo se ce l'ha qualcuna gli è rimasta. Io ce l'avevo, l'avevo regalata. La regalata perché serviva, non mi ricordo chi, un MRF 455, e poi ti regalo la scheda, gli ho detto vai, lo smetto, stacchi tu, e te lo fai piazzare. Capito? Adesso un po' se è scappato la cosa uguale, me lo prendo e così glielo metto dentro. Allora, come andiamo? C'è il 28, c'ho appuntamento 28 di febbraio alle 10, vicino a casa tua. Fammi pungere, così divento positivo anch'io. Cosa? C'è un appuntamento 28 lì, vicino a casa tua, fammi pungere, così divento anch'io positivo. E quelli che stanno facendo la terza dose, tutti positivi sono. Oh, ma l'ha fatto uno positivo? Sì, vabbè, no, mi hanno inculato. Fatto la terza dose, cazzo. Fatto tampone, cazzo, positivo. Come si chiama? All'ultimo Covid che è uscito. L'omicron, come lo vuoi chiamare? Tutti positivi, cazzo. È come se in pratica nel vaccino non ti avessi fatto un tubo, la terza dose, il booster. Ma tu sei qua, eri al monte? No, ho preso l'appuntamento stasera per telefono e mi risultava libero il 28 di febbraio alle 10 del mattino. Sì, no, è la città allora, io lo devo fare il 3 gennaio. Sì, figura. Invece mio nipote è cazzo nel telefonino suo domani mattina, solo che non l'hanno accettato perché l'ha fatto 3 mesi fa. Io il 3, e tu lo devi fare, a febbraio lo stesso. No, lo sai che io ce l'avevo fino a maggio. Ah. Già, quindi io aspetto un attimo, un pochettino, e poi leggiamo e me lo faccio prenotare. Rosa ci devi scrivere il codice fiscale tuo, il numero del codice fiscale, e poi nome e cognome, e quando sei nato e il telefono, basta, non voglio altro. E poi arriva il messaggio in automatico direttamente al telefono tuo. Già non so già come funziona. Il problema è che uno va a un radio, appena qualcosa, ma si fa il tampone, bisogna dire che se il tampone sono attendibile, subito coronavirus, ma ne da cagare, vai. Cioè bisogna capire se questi tamponi sono attendibili, perché mi sembra troppo strana la cosa qua. E beh, anche a me, cioè a un sacco di gente che ha fatto il terzo vaccino è immediatamente positivo, chiudi tu. Cosa gli hanno iniettato? Il placebo gli hanno iniettato, acqua minerale. Avanti Cristian. Io ti sento un po' basso, ti sento. A te tu lo senti? Sì, un bel basso però. Ah, se vuol dire basso, segnale 1, radio quasi 1. No, riesco neanche a capirlo. Adesso mi sei arrivato Santiago 3. Avanti Cri. E che zona sei? Sì, adesso. Buonasera. Grazie a me, ma se non mi sentivi a Iti, ma che l'antenna va, l'antenna di plastica. Ho una piccolina, l'altra è messa giù, ora ci ho messo l'altra. Ah, ok, dove c'è la Budi, sì. Andava. Capo, ma io già ti ho sentito a Iti, ma eri basso, eri. Non lo so, c'è una metro e mezzo, cosa prendi? Adesso lo sento anch'io, qua, segnale 4. Io sono un 5-4 del baracchino, che cosa sentivi basso da Itiri? Ah, ma non ci sentivi a noi? Te sentivo basso di radio, un bel segnale, sentivo proprio di radio con segnalone da 9-9-30. A Itiri? E a Itiri. E non a Mara, ma è possibile. possibile che arrivi così forte? Possibile, possibile. Se un cavaliere, per il Margherita, sono tranquillo. Ma ci sentivi tutti, ci sentivi o qualcuno un po' di meno? Sentivo te a Claudio. E gli altri non li sentivi? No, gli altri no. Sentivo solo te a Claudio e basta. Vai tu. Io sentivo Santiago, mi sa, a 5 con un rete di 2-3. Ma cosa ci vivo benissimo a Claudio, così perfetto. Capo, vabbè, se non ti dia Claudio, era grave la cosa. Un capo anche l'ha parato pure. Vabbè. E Claudio favorevole, non ha da dire. Capo, me l'ha detto in parecchi, cazzo, che sentono. Cioè, in certe zone sentono, sia a me che se sentono molto forte pure. Ma guarda, Ritti era il campo sportivo, figurati. Sentivi così forte. Credo sì, una schingola. No, noi ti sentivamo un po' basso. Beh, guardate, io già non ho fatto questi 5 watt, non ancora un metro e mezzo, adesso mi metto a 2001, mi metto a 2001 di metto adesso. Capo, è importante che ci senti, dai. E mi sa, adesso mi metto a 2001 con la base magnetica, da 150, la più grande influenza c'è. Capo. Secondo me se andate senza radiare ci fate quindi di più. Che strano. Ragazzi, io faccio quello che io sono già andato a casa, dai. E sono scoglionato per oggi, dai. Eia, ciao, ci sentiamo. Ciao a tutti e buona giornata a tutti, buona male, ciao. Eia, ciao, saluto a tutti. Saluto lì, ci sentiamo. Spero che ci abbia ascoltato i tiri. Vabbè, se non ti andate a Itiri è grave. Ma insomma, ascolta, ce l'ho di fronte Itiri, io da qua vedo il ripetitore, figurati. Vabbè, già un grido ti accorcia, mia. Ascolta, non è forte lì a Itiri, non accorcia a te. Chi c'era lì? Ah, cosa c'era? Non so, quel che può fare modulava, poi sparito, donna. Uno che faceva riparazioni di macchine, non mi ricordo un attimo adesso, modulava lì, poi c'era un altro paio di ragazze, c'era tutte spariti sono in quel paese. E io già me lo ricordo chi c'era. Cazzo. Mi ha detto cercare Falcone, mi ha venuto qualche barattino, lo faccio entrare, almeno la 27 si riempie subito. Sicuramente da qua mi sarebbe arrivato fortissimo qua a casa. Se c'è stato ancora Paoletto. Ah, quello sì. Non l'ho più visto. So che frequentava la piazzetta lì al bingo, poi faccio più visto. Pure da mannito me. Ci aveva perso una settantina d'anni, sono di più. Penso anche di più. Sì, sicuramente sì. Adesso c'ha tutto in mano. Si è diviso tutto perché il padre, cioè il fratello, in pratica mi sembra che ha venduto l'attività, quindi adesso campiamo di rendita. Già lo so, già. Comunque la casa è sempre la sua, amico, quella di Canica. Sì, la casa sì. C'è la casa riccia, poi a parte tutto il locale grande che c'è dove c'è il negozio prima, quindi figurati. E lì vedrai che ci uscirà la bella palazzina grande, venderà tutto, venderanno e rivederanno tutto tra fratelli e sorelle. Farà mai così a multinaggio. E ci sono anche andato nella casa sua, lo sai, a portarci una bombola lì dentro. Sì, c'era lì, c'era anch'io lì a casa sua, dovevi fare le scaline, dovevi fare, lì abitava Ponte Santi anche, prima di affiancare lui. Mamma mia, a me non dormiva la notte quando si incazzava. E infatti già lo sentiva, mi ha detto. Dice, sento Paolo, dice, gridare, dice, sembra che lo stiano scannando, mi aveva detto un giorno. Ma non è, è Marco, ma no, non è Marco assai, così è. No, già ragione, già ti preoccupare, già ragione abbastanza bene. Sì, magari un po', come si dice, un po' così, però alla fin fine non è Marco Bè, compreso, eh? No, infatti no. Se fosse stato scemo non sarebbe andato a fare la spesa da solo. Guarda che lui andava a fare la spesa lì vicino, in quel market che c'è all'angolo. Andava lì da solo, la madre gli dava il foglietto, lui comprava la roba, già sapeva contare i soldi, non sapeva contare così, no? Capa, cavolo, schizza quante volte l'ho visto io, ma io non me lo ricordo. Io sono da parecchio che non lo vedo, figurati. Se mi capita di vedere qualche giorno già lo mi fermo, lo saluto. Dico, beh, se vuoi un baracchino, glielo regalo, dico, ti piace il baracchino così ci fai schiattare e torna. Almeno ci fai compagnia, entra un po' di gente, gli dico. No, forse è meglio lasciar perdere. Ma 70 anni non conviene farlo incazzare. Sì, vabbè. Almeno ci si abitua a tornare un po' perché magari diventa, è più calmo, venite di strano, che non si incazza più. Può essere. Sì, ma pure la gente disgraziata di rompere le scatole, no? Meglio lasciar perdere. Mi fa il gioco della calzetta, che fa cazzo. E Luca che ha fatto? Luca! Via, me ne in bagno! Ah, in bagno, ti stavi cagando, ti stavi! Sentiva le calze! E quando si incazzava, brutto! Ehi, me lo ricordo già. Scusate, puoi fare, diceva il mio numero di telefono, 27-33-90, signorissimo. Ti faccio squillare il telefono mattina, sera, notte e giorno. Ti faccio scilloci di fura. E allora, cazzo, perché mi faceva squillare il telefono a me, quello di casa di mamma, cazzo? E mamma, chi è che stai facendo squillare il telefono? Paoletto, gli ho detto. Dice, stacca il telefono, mi faceva, mamma. Stacca il telefono, hai detto, vabbè, lo stacco. No, allucinante. Io ero ragazzino, ero, cioè, molti anni fa. L'avevo conosciuto che proprio c'era il baracchino. Io lo prendevo di nascosto qualche volta. E le facevo ciucucciù, li facevo. Perché avevo sentito questo ciucucciù, avevo sentito, forse da te, non lo so. E lui si incazzava. Ehi, infatti, era così. Glielo facevo, non so chi glielo facevo, la buona anima di foglia d'oro, li guardia, ciocciò, ciocciò, ciocciò. Ah, già è vero. Davvero, guardi, io me lo ricordo come se fosse oggi, me lo ricordo. Dopo li guardia, luci, cannoncino, li guardia, e si incazzava. È vero, già. Te lo ricordi? Sì, già me lo ricordo già. Risate, forse Luca se lo ricorda. A chi? Quando rifaceva così. Non ci Edo si incazzava, Paoletto, te lo ricordi? Sì, ma era un stacco di persona, Paoletto. Carità. Ma sicuramente io l'ho visto tante volte, ma non mi ricordo chi è. Era tutto peloso, era. Ogni amare rivenga. Oh, strano che non c'è più qualche sito su Facebook. Che... Ma perché su Facebook ci avete provato o non l'avete trovato? No, veramente non ci ho mai provato io, la verità. Dopo ci provo a controllare se c'è Paolo Micolis. Già lo so già. Oh, magari ma come te, ma ne comprendiamo di queste cose. Già ne capiva, sì. Va bene, c'aveva tutte le mani il fratello o la sorella, niente di strano. Oh, capo. Ok, dai, io vi lascio che adesso mi devo addormentare un po', mi faccio sonno. Ciao, buon fratello, buona anche a te Luca. Ci risentiamo alle prossime. E ciao. Tanto. Ci stiamo domani, dai. Ci do anch'io. mangiato poco fa il ravioli di casa, c'era sullo stomaco, c'ero già. Ho mangiato un piatto e mezzo, l'ho già mangiato. Adesso mi piglio il, come si chiama, quello frizzante, così vedo se riesco a digerirla. Ehi, ciao ragazzi. Ciao, buonanotte, domani, ciao, ciao Pompo, buonanotte. Ciao, ciao, buonanotte a tutti. Sì, ok, ciao, buonanotte a tutti.